time, an old time, an old time, an old time. Ci sono uomini che ti prendono per mano e ti portano lontano, lontano. In nessun momento ti ho lasciato andare, in nessun momento ho abbandonato il tuo cuore. Corri bambina, corri, che è tua tutta la scienza. Suonano per te una magnifica danza. Nelle tasche degli uomini ci si trova di tutto, ma per te conta solo quello che il cuore ha scritto. Love, love, love, mon amour, mio amore. Love, love, love, diceva Franco, il figlio del sole. Love, love, love, mon amour, mio amore. Tu non ti devi preoccupare, io sarò sempre vicino al tuo cuore. Abituare a convivere con i mediocri, a rincorrere vacche che si ingrazzano grazie agli idioti, a vedere programmi che vomitano carnevali, a baciare le mani di chi vive peggio dei maiali. Corri bambina, corri, che è tua tutta la scienza. Suonano per te una magnifica cadenza. Nelle tasche degli uomini ci si trova di tutto, ma per te conta solo quello che il cuore ha scritto. Love, love, love, mon amour, mio amore. Love, love, love, diceva Franco, il figlio del sole. Love, love, love, mon amour, mio amore. Non ti devi preoccupare, io sarò sempre vicino al tuo cuore. Love, love, love, mon amour, mio amore. Love, love, diceva Franco, fratello del mio cuore. Love, love, love, mon amour, mio amore. Tu non ti devi preoccupare, io sarò sempre vicino al tuo cuore.